Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Che puntata abbiamo in serbo per voi oggi? Una puntata che ci terrà a cavallo tra Europa e Stati Uniti, con un preciso focus sul lavoro e sui tirocini all'interno delle istituzioni internazionali. Più nel dettaglio, la testimone della settimana ci fornirà tante dritte utili per lavorare all'interno degli organismi mondiali. Lei, che ha una certa esperienza alle spalle, credetemi, attualmente lavora presso la Banca Mondiale a Washington. Sempre in tema di istituzioni internazionali, vi forniremo preziosi consigli su come svolgere tirocini in quelle europee. Restiamo nel vecchio continente. Nello spazio Internet Point andremo a raccontarvi un blog che dispensa consigli e indicazioni utili per vivere e lavorare in Germania. Infine, come di consueto, le migliori offerte di lavoro dal mondo con Face for Job. Il nostro volo è al gate. Imbarcatevi per viaggiare verso la vostra nuova vita all'estero. Generazione Mobile. Alcuni spunti e segnalazioni utili per cominciare. Ci sono ancora 9 giorni di tempo per candidarsi a 61 progetti di servizio civile nazionale all'estero. Tutte le info su gioventuserviziocivilenazionale.gov.it. E il 15 novembre va in scena a Trento l'evento In partenza per l'Europa a cura di Europe Direct, con tutte le informazioni indispensabili per partecipare a programmi comunitari oltre confine. Toolbox. Secondo appuntamento nella miniserie che vi proponiamo questo autunno su come fare carriera nell'Unione Europea. Dopo la prima puntata di ottobre, nella quale vi abbiamo spiegato come lavorare per le istituzioni comunitarie, oggi vi forniamo tutti i dettagli utili per svolgere tirocini all'interno di queste stesse istituzioni. Lo facciamo ancora una volta con Barbara Forni dell'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano. Buongiorno Barbara. Buongiorno a tutti voi radioascoltatori. Parliamo oggi di come fare stage tirocini all'interno delle istituzioni europee, con un forte focus sulla vostra istituzione che è il Parlamento Europeo. Allora iniziamo subito. Ti chiedo, chi può fare domanda di stage? Il Parlamento offre queste opportunità di tirocinio ai giovani laureati e laureandi presso le proprie sedi, sia di Strasburgo, Lussemburgo, Bruxelles, ma anche presso gli uffici di informazione nei vari paesi, come ad esempio l'ufficio di Milano, dove io attualmente svolgo la mia opera, diciamo. Le tipologie di tirocini sono essenzialmente per laureati, sono i cosiddetti tirocini Schumann. Esistono anche invece, e per quanto riguarda il settore della traduzione, tirocini legati ai soli diplomati, quindi ragazzi che magari stanno già effettuando un percorso di studio in lingue e che durante l'università vogliono effettuare un tirocinio di formazione alla traduzione. Andiamo con le basi. Sono giovane, voglio magari neolaureato e voglio fare uno stage con voi. Qual è il mio primo punto di contatto? Allora, il primo punto di contatto è ovviamente verificare sul sito del Parlamento Europeo quelli che sono le finestre legate ai periodi di iscrizione. I periodi di tirocinio iniziano sempre il 1 marzo e il 1 ottobre di ogni anno e hanno una finestra nei mesi precedenti per poter effettuare l'iscrizione, che ad esempio per il periodo di marzo apre in agosto e chiude ad ottobre, quindi in periodi lunghi in cui c'è la possibilità di recuperare tutte le informazioni e verificare anche i requisiti di cui bisogna essere in possesso per effettuare la candidatura. Candidature spedisco online in primis? Candidature in primis online, sul sito del Parlamento Europeo c'è proprio un modulo da compilare e con ovviamente l'attestazione dei requisiti di base e poi la compilazione rispetto ad alcune parti che sono dati anagrafici, percorso formativo, percorso di studi, conoscenze linguistiche e una parte sulla motivazione del perché fare un'esperienza di questo tipo all'interno della nostra istituzione. C'è poi, nel caso la candidatura formalmente sia corretta, una selezione, un colloquio di selezione, oppure si viene contattati e invitati poi a fare lo stage? La selezione non avviene, diciamo, alla presenza del candidato, la selezione avviene tramite uno scritto screening dei curricula pervenuti in base alle caratteristiche che i singoli uffici hanno esplicitato, ma non viene fatto il passaggio con il colloquio al candidato. Quindi la persona selezionata verrà contattata, previa poi spedizione di tutti i documenti che attestino effettivamente quello che aveva dichiarato nella domanda, per iniziare direttamente il percorso di tirocinio nell'ufficio. Quindi anche la scelta dell'ufficio, se a Bruxelles, a Lussemburgo, deve essere esplicitato chiaramente. Io su questo mi permetto di fare una nota proprio di merito: nella compilazione della domanda è fondamentale fare, prima di compilarla, uno screening di quelle che sono le diverse direzioni generali del Parlamento Europeo, perché deve esserci congruenza tra quello che io scelgo a livello di ufficio, quindi di collocazione, con la sede fisica di questo ufficio. Due cose rapide ma fondamentali: sono normalmente tirocini retribuiti in qualche modo? Sono tirocini retribuiti. Devo dire che la borsa ammonta bene o male sui 1.200 euro, poi viene parametrata in funzione dell'indice che è applicato ai singoli paesi per il costo della vita, ma è sicuramente una borsa interessante, soprattutto se paragonata alle esperienze di tirocinio che purtroppo vediamo in Italia. E c'è anche un aiuto a trovare alloggio? C'è un aiuto, la possibilità, ci sono dei contatti che vengono forniti dall'ufficio stage. Non è un vero e proprio, come dire, una vera e propria assistenza alla ricerca della casa o dell'alloggio, ma è il fornire una serie di punti di contatto che poi il singolo candidato potrà eventualmente andare a contattare. E un'ultima cosa: ovviamente gli stage si possono fare non solamente al Parlamento Europeo, ma anche nelle altre istituzioni europee. Qui cosa ci puoi dire? Sì, assolutamente, ogni istituzione mette a disposizione un certo numero di posti per tirocini all'interno delle proprie unità. I regolamenti sono sempre pubblicati sui siti delle rispettive istituzioni, anche per loro vale la domanda compilata online e poi solamente per chi verrà selezionato la spedizione dei documenti cartacei. Il mio consiglio è di provare assolutamente, perché se non si supera una selezione in un'istituzione, questo non preclude il poter fare domanda presso un'altra istituzione. Il testimone. La testimone della settimana lavora per una delle maggiori organizzazioni internazionali. Lo fa da Washington, anche se il suo ruolo la porta spesso in giro per il mondo. Con lei oggi vogliamo avviare un focus proprio su questo settore, che può offrire parecchie opportunità a voi giovani ascoltatori dalle ambizioni globali. Buon pomeriggio, Roberta Berzero. Ciao Sergio. Roberta, la tua è una storia che ti vede protagonista sulla scena internazionale a partire dalla laurea in giurisprudenza a Milano 9 anni fa. Cosa è successo da allora? Qual è stato in estrema sintesi il tuo percorso? Allora, sostanzialmente dopo la laurea ho effettuato un master all'estero negli Stati Uniti, che poi mi ha portato a vincere una serie di internship all'estero, tra cui la Cina. Sono tornata brevemente in Italia per lavorare nel settore privato in uno studio legale, e successivamente sono ritornata all'estero perché volevo puntare sul settore pubblico. Quindi sono stata alla Commissione Europea, successivamente di nuovo nel settore privato, e fino a quando, seguendo la mia vocazione di restare nel pubblico, sono riuscita ad ottenere una posizione alla Banca Mondiale qui a Washington DC. Ecco, e di cosa ti occupi esattamente la Banca Mondiale? Dunque, sono avvocato e rappresento l'America Latina nei casi di frode, corruzione e collusione nei progetti finanziati dal Banco Mondiale, quindi mi occupo di investigazioni sostanzialmente, e colgo l'occasione per affermare che tutto quello che sto condividendo questo pomeriggio è opinione personale e non riflette le politiche ufficiali o la posizione dell'organizzazione. Chiaro, partiamo dall'inizio e dalle opportunità che hai cercato e trovato fin dall'università, opportunità che ti hanno portato prima in Argentina, poi a Parigi. Come hai fatto nello specifico a trovarle? Allora, nello specifico l'università è stata fondamentale, nel senso che l'Università Cattolica Milano stimola molto le opportunità all'estero, quindi sono riuscita a cogliere quello che è stato offerto, e inizialmente una delusione sentimentale mi ha portato a scegliere uno scambio più nel posto più remoto possibile, che è stata l'Argentina, e l'esperienza è stata così piacevole e costruttiva che ho deciso di ripeterla attraverso un Erasmus in Francia. Roberta, quali programmi e siti puoi suggerire andando nel concreto per studiare fuori dall'Italia e dall'Europa? Sicuramente diciamo l'università, ci sono dei programmi ottimi che sono proposti dalle istituzioni stesse, ma programmi interministeriali sono anche molto utili, tra i quali il Junior Professional Officer o i siti degli organismi internazionali come le Nazioni Unite o la Comunità Europea. Di solito, a seconda del settore di interesse, le opportunità sono veramente veramente infinite. Approfitto per dire che tu hai fatto la tesi di laurea all'estero, questa è un'altra possibilità, e conclusa la laurea è stato il momento di cercare lavoro. La tua strada è passata da tirocini e master a livello internazionale. Qui mi vorrei soffermare. Quale percorso consigli per cercare stage all'estero? Sicuramente i master sono una piattaforma fondamentale per questo tipo di opportunità, perché ci si fa conoscere dai professori attraverso i corsi a cui si partecipa, e questo è un trampolino di lancio eccezionale. Ma di nuovo il sito delle Nazioni Unite e degli altri organismi internazionali sono anche, a seconda del settore di interesse, sono molto utili in questo senso. Tu tra l'altro suggerisci di investire sulle internship, sui tirocini, soprattutto chiaramente all'estero, ma ti chiedo, un master all'estero può rappresentare un buon completamento dell'iter di studi internazionale? Assolutamente, e in questo senso permette innanzitutto di perfezionare le lingue straniere, che sono fondamentali nell'esperienza all'estero, e poi offre, cioè un master all'estero offre quel tipo di complementarietà all'educazione in sistemi diversi da quello italiano in cui siamo abituati. Faccio un esempio super rapido per il diritto che mi riguarda: noi operiamo in un sistema di civil law, mentre negli Stati Uniti hanno un sistema di common law basato sui precedenti, quindi questa complementarietà è veramente apprezzata dal datore di lavoro. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata i consigli di Roberta Berzero, 33enne litigation specialist presso la Banca Mondiale a Washington. Con Roberta affrontiamo una trasmissione praticamente monotematica su come fare carriera all'interno delle organizzazioni internazionali, da ascoltare fino alla fine. Noi intanto riprendiamo l'ascolto. Generazione Mobile. Quale università consigli per fare un master negli Stati Uniti? Allora, non parlo per opinione personale. Due o tre nomi. Ci sono gli Ivy League University, che sono sostanzialmente Yale, Harvard, Princeton, Columbia, Cambridge. Però ci sono anche delle ottime università in Europa, con dei costi assolutamente più contenuti e più accessibili, come Oxford. Per abbattere un po' i costi, negli Stati Uniti ci sono programmi, opportunità specifiche? C'è la prestigiosissima Fulbright, che è una borsa di studio specializzata in programmi negli Stati Uniti, ma anche la Rotary per esempio in Italia, e in ogni caso consiglio sempre di verificare con le università specifiche di interesse, perché offrono delle borse di studio basate sul merito e non sulla situazione patrimoniale della famiglia, che sono utilissime. Allora Roberta, il tuo caso è interessante per raccontare come hai saputo approfittare dei programmi ministeriali per entrare a lavorare nelle organizzazioni internazionali. Nello specifico, a quale ti sei candidata? Sì, come dicevo prima, il Junior Professional Officer è stato il programma che mi ha permesso di ottenere la posizione attuale presso la Banca Mondiale. Ci sono anche dei programmi attraverso le istituzioni europee come l'EPSO, e sul sito dell'Undesa c'è un programma specifico che si chiama Italian Fellowship Program, ma questo viene aggiornato diciamo periodicamente, dove ci sono molteplici opportunità per giovani laureati per diciamo incamminarsi nella carriera all'estero. La tua tappa più recente, lo abbiamo detto, ti ha portato a Washington, una città amministrativa lontana anni luce dalla verticalità di New York. Com'è stato l'impatto con Washington? La consigli come destinazione di vita, non solo di lavoro? Diciamo che l'impatto è stato un po' scioccante, come dici tu. New York era un altro livello, però si impara a apprezzare nel tempo quanto può offrire la multiculturalità, l'ambiente molto intellettualmente vibrante. Però diciamo che se potessi scegliere trasferirei gli headquarters della Banca Mondiale altrove. Allora Roberta, c'è un suggerimento che mi ha colpito sull'utilità, suggerimento tuo ovviamente, sull'utilità potenziale di un dottorato in vista dello lo sviluppo della propria carriera. Perché lo consigli? Allora, innanzitutto perché in un mondo sempre più competitivo i titoli contano e quanti più se ne hanno maggiori sono le probabilità di successo, questo è un dato di fatto. Come seconda cosa, un dottorato permette di specializzarsi, quindi di coronare a mio avviso con il titolo più alto disponibile il settore in cui si opera. E infine, cioè da una prospettiva finanziaria, ogni università in Italia perlomeno offre almeno 3 borse di studio. E classificarsi bene in un concorso del genere permette anche di percepire uno stipendio per 3 anni, che insomma pari a 1.000 euro se non è cambiato dai miei tempi, quindi questo è ottimo. Roberta, in un flash, tu che hai vissuto, studiato, lavorato in mezzo mondo, in quale paese, in quale continente suggeriresti di puntare oggi per la propria carriera? Dove intravedi maggiori prospettive? Guarda, nella mia esperienza personale io lavoro molto con l'America Latina e vedo un potenziale di sviluppo enorme e quindi anche i profili professionali che si possono affermare, però anche l'Asia, diciamo che è già un continente più avanzato, con la determinazione degli asiatici e la barriera linguistica, credo che sia anche un continente molto attraente che potrebbe, diciamo, apportare un differenziale. E poi vabbè, insomma, scusa se ti interrompo, gli Stati Uniti ovviamente per definizione sono il paese dell'opportunità, quindi non lo escludo. Lo hai potuto sperimentare anche di prima mano. Roberta, c'è anche per te, per chiudere e salutarti, la nostra domanda di rito, che è sempre la stessa, ma è fondamentale: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? E di consigli pratici penso che ne abbiamo parlato fino ad ora, piuttosto punterei su un consiglio di filosofia di vita che diciamo i miei mi hanno sempre ricordato durante tutti i miei viaggi, di lasciare una buona impronta e un buon ricordo ovunque si vada, perché questo permette di creare delle relazioni durature, di diciamo distinguersi dalla massa di persone che vanno e vengono, e questo diciamo sarà ricordato anche nel momento in cui si cerca un lavoro all'estero. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna questa settimana Alessio Romeo, CEO e fondatore di Face for Job. Con lui andiamo alla scoperta delle offerte più calde del momento nel mondo. Questo sabato ci concentriamo sulle top 10 delle nazioni che offrono maggiori opportunità, quindi partiamo dalla prima classificata Stati Uniti, seguita da India, Francia, Emirati Arabi Uniti, Cina, Inghilterra, Olanda, Germania, Messico e Australia. Gli ambiti professionali più caldi, rimane sempre in testa l'ambito tecnologia IT, seguito da retail engineering e a seguire commerciale marketing, neolaureati e finance. Vediamo subito allora quali sono queste aziende che offrono le maggiori opportunità in queste nazioni, considerando sempre che poi sul nostro sito trovate tutti i dettagli di riguardo. Allora, partiamo con il colosso Siemens, che ha 86 vacancies aperte in 4 differenti country, 3 asiatiche più il Sudafrica, in città come Bangkok, Giacarta e Johannesburg, per ben 39 differenti profili professionali, quindi spaziando dall'engineering a quella dei neolaureati. Nello specifico le figure più ricercate sono sales engineering, project engineer, electrical engineer e junior engineer. Webhelp, società francese che si occupa di outsourcing, di servizi in outsourcing, che vede anche tra le controllate la Telecom, ha aperto 150 vacanze in Francia, in molte delle città francesi, anche qui consulenti, operatori di call center e in ambito anche figure ambito finance, junior HR. Poi abbiamo la H&M, nota catena di negozi per abbigliamento, che ha 85 posizioni aperte in 3 differenti country del mondo per 14 tipi di mestieri differenti, da venditore di negozio a neolaureati, financial controller, store manager e ingegneri anche per uffici brevetti. Abbiamo la BB, che presenta 54 vacanze in 4 differenti country, città come Monterrey in Messico, Sydney e anche Pechino in Cina. Abbiamo ben 30 figure professionali spalmate tra IT, marketing e engineering. Poi abbiamo IKEA con 39 vacanze aperte in Cina, a Shanghai, a Wuhan e in Australia, a Melbourne e Sydney, in figure sempre retail, acquisti, ma anche risorse umane, finance e marketing. Chiudiamo questa analisi con una italiana all'estero, la Ferrero, con 39 vacanze aperte in Cina, Francia, Germania, Australia e Russia, per ben 24 differenti figure in ambiti professionali diversi come neolaureati, marketing e digital engineering. La figura più di esperienza invece più ricercata, dopo appunto i giovani neolaureati, è proprio il PR Marketing Specialist. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi torniamo in Germania per raccontarvi attraverso un blog come stabilirsi nel paese europeo economicamente più solido, anche in termini di opportunità professionali, una volta superato l'ostico scoglio linguistico, ovviamente. Lo facciamo con Denise Masiero, ideatrice del sito web My Social Travel. My Social Travel è nato dall'idea di un blog di viaggi e poi è diventato anche un expat blog dalla mia esperienza di vita in Germania. Quali sono i consigli fondamentali che dai agli italiani che vengono a vivere in Germania? Il primo consiglio che mi sento di dare è quello di imparare la lingua tedesca, e iscrivendosi a un corso intensivo, meglio se i giorni, soprattutto all'inizio. Anche se non è richiesto per il lavoro, il tedesco è comunque fondamentale per vivere in Germania, perché non è un paese come ad esempio la Danimarca, dove tutti parlano inglese e si possono incontrare problemi anche nella vita di tutti i giorni. In seguito consiglierei di cercare di integrarsi fin da subito e di trovare magari all'inizio anche un lavoro part-time che permetta di continuare ad imparare la lingua e di svolgere anche la propria professione. Quali sono i settori o le zone geografiche dove consigli di cercare? Quello che consiglierei io è la zona del Nordrhein-Westfalia, dove mi trovo. Ci sono molte città anche grandi, ad esempio Colonia, Düsseldorf, Essen, e ci sono moltissime aziende. La zona di Berlino è più utile per le start-up, per le grandi aziende o anche per le piccole imprese, però c'è molta più competizione anche da parte di italiani che si trasferiscono quasi tutti lì. Cosa ti chiedono invece i giovani che ti scrivono e ti chiedono consigli? Quali sono le richieste più frequenti? Le richieste più frequenti sono sicuramente come trovare lavoro, come trovare un corso di tedesco che sia economico e che dia un certificato di lingua, oppure anche richieste da persone che hanno ad esempio un partner che vive in Germania, non sono sicure di potersi trasferire perché non sono sicure di poter lavorare in Germania non sapendo la lingua, o anche richieste su come riuscire ad integrarsi, riuscire a fare amicizie e avere un circolo sociale, che all'inizio è abbastanza difficile trasferendosi in Germania e non sapendo la lingua. Infatti tu hai anche una sezione vita in Germania, è un paese dove è facile integrarsi? Sicuramente dipende dalla zona, una città come Berlino, Amburgo o Monaco è sicuramente più facile che un piccolo paesino dove tutto è più difficile. Hai notato aumentare il livello sia di immigrazione giovani italiani negli ultimi mesi, sia anche di richieste di informazioni al tuo blog? Sì, ho notato molte richieste di informazioni al mio blog. Adesso sta aumentando anche il numero di blog, di siti che forniscono informazioni in lingua italiana. Per maggiori informazioni potete cliccare su my-socialtravel.com. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, e potete pure contribuire al nostro blog che si chiama Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere, testimonianze personali? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro e imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte, insomma, della nostra Generazione Mobile, scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a Generazione Mobile @radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.